Il mio matrimonio si è trasformato in un drago a due teste. Ai giorni in cui mio marito si abbandona alle tenerezze, ne seguono altri in cui sento che si disprezza perché mi ama. Dopo una notte di passione e di risa può capitare che si alzi dal letto, rifiutandosi persino di rivolgermi la parola. Altezzoso, distante, mi umilia di fronte agli altri, si comporta come se io lo disturbassi. Il mio corpo sa ancora di lui quando vengo a sapere che è andato a caccia per diversi giorni a Louvain, senza nemmeno salutarmi o avvertirmi. È Madame de Halévin che di solito mi informa della sua assenza, e lei che me lo sussurra all'orecchio quando mi vede vagare per il palazzo in cerca di lui come un cane del padrone. In quei giorni io perdo me stessa e mi domando solo quale azione mia o dei miei cortigiani lo abbia irritato. Mi impegno a recuperare lo stato di grazia e provo nostalgia per i ricordi di appena una settimana dietro. Nemmeno le risa dei miei figli allontanano il turbamento e l'angoscia del sentire che si allontana da me. Se oggi il suo distacco è una crepa, domani temo sarà una voragine. Ecco come stanno le cose. La notizia che lui e io saremo un giorno re e regina mi ha provocato nausea e nemmeno le mie due prime gravidanze nella terza che sto portando avanti mi hanno dato. I miei genitori ci hanno chiesto di andare in Spagna. È necessario che Filippo e io riceviamo l'investitura perché questa sia ratificata dalle Cortes. L'arcivescovo di Besançon, François de Buisletin, senza i cui consigli Filippo non muove un dito da quando era piccolo, ha convinto mio marito che prima di andare in Spagna deve rasserenare i francesi e consolidare le relazioni delle Fiandre con la Francia. Lui e Philibert de Vere, altro incallito difensore dei francesi, hanno convinto Filippo a suggellare questa alleanza, concordando il matrimonio del mio piccolo Carlo con Claudia, l'unica figlia di Luigi XII. Il fatto che a Filippo, sul punto di essere riconosciuto erede dei regni di Castiglia e Aragona, non sia venuto in mente niente di meglio che andare incontro ai rivali storici della Spagna offrendo loro nostro figlio, è un atto la cui ostilità ha fatto straripare la rabbia che con tanta fatica contengo, soprattutto adesso che vivo con l'angoscia che un giorno finisca per farmi perdere il suo amore. Quando mi si presentò come lupo travestito d'agnello perché apponessi la firma di approvazione sull'accordo matrimoniale con il quale pensava di ingraziarsi Luigi XII, mi infuriai, stracciai la pergamena in un sol colpo e continuai a farla a pezzi, imperterrita di fronte agli insulti che mi propinò, avvicinandosi finché non mi afferrò per i capelli. Mi costrinse a sedermi davanti allo scrittoio e al camino della mia camera. Che diritto avevo? Chi credevo di essere? Gridava senza riuscire a pronunciare altre parole oltraggiose che non fossero quelle urla di protesta. Non ti ho mai rifiutato niente, Filippo, lasciami immediatamente. Mi lasciò, mi chiese perdono, si inginocchiò, mi abbracciò le gambe. No, lui non avrebbe mai maltrattato la madre di suo figlio, mi disse. Non capiva quale spirito malvagio lo avesse posseduto, ma io dovevo comprendere che era suo dovere difendere le Fiandre. Le buone relazioni con la Francia potevano essere irrilevanti per la Spagna, ma erano vitali per la Borgogna. Il tuo paese è adottivo, è piccolo, Giovanna, e per quanto spagnola tu possa essere ancora di più adesso che sarai regina, devi essere saggia e comprendere la mia posizione. Sposare Carlo con una principessa di Francia non è un'infamia né un affronto, al contrario, pensaci. Lui regnerà su un impero che noi non riusciamo nemmeno a sognare. Spagna, Francia, Fiandre, Germania, Sicilia e Napoli. Forse in un altro momento, Filippo, ma non ora. Luigi di Valois regna da poco tempo. Arriverà il momento di prendere queste decisioni quando capiremo meglio che cosa conviene alla Spagna e ci assumeremo la nostra responsabilità di futuri sovrani davanti alle Cortes di Castiglia e Aragona. Prima di ciò, continuerò a dire di no e non potrai farmi firmare alcun documento. Non firmai. Dopo questa scena Filippo si convinse, capì anche che ammirava il mio coraggio nell'affrontarlo e per settimane ebbe per me il dolce slancio dei primi giorni. Che cosa temeva Filippo? Mi bastava ascoltarlo per sapere che poche cose lo intimorivano tanto quanto avere a che fare con i miei genitori. Lontano da loro poteva presumere di sapere come agire. La facilità con cui la gente inganna se stessa è stupefacente. Io farò questo, io dirò quello. È così facile farsi coraggio con le intenzioni. Io stessa preparo discorsi contro Filippo che non li faccio mai. Lui compare alla porta e il perfetto edificio delle mie argomentazioni. che fino a quell'istante si eleva dalle nebbie della mia furia come una massa solida e inespugnabile, si fa insicuro e tremolante come un miraggio nel deserto. Il coraggio mi abbandona e sono come un campo che di colpo si trasforma in un pantano. Il mio corpo viene invaso dal fango vischioso della paura e temo che qualsiasi mia parola sia il sasso che ridurrà in frantumi il suo amore. Mi atterrisce l'idea che Filippo non mi ami più, anche se so bene che alla fine proprio il timore sarà la causa della mia rovina. Lui si è innamorato della mia franchezza e della mia audacia e non di questa Giovanna sottomessa e pavida in cui mi sono trasformata. Lo capisco chiaramente e tuttavia non trovo la maniera di smettere di agire come agisco ora. Altre forze che non riesco a controllare sono più potenti della ragione che illumina inutilmente il mio intelletto. Si sente tanto parlare dell'irrazionalità dell'amore, ma io non immaginavo che potesse costringere una persona ad agire contro se stessa. Tuttavia, con mio rincrescimento, mi disprezzo, perdo la testa. Sarà che la mancanza d'amore è come la morte, e allora ci si afferra la vita a qualsiasi costo? Disperarsi per amore e accontentarsi delle briciole come chi muore di fame. Ah, che destino spietato! Non voglio apparire agli occhi di Filippo come una mendicante, ma è quello che sono, mio malgrado. La ragione mi mostra le debolezze di mio marito, per esempio il suo timore di andare in Spagna. Aveva tanto desiderato essere principe delle Asturie, ha tanti progetti per noi e per i nostri figli. Con tutto ciò non passa giorno in cui non trovi una giustificazione per rimandare la partenza. Senza che lo volessi, ho finito per essere la sua migliore scusa. La mia gravidanza procede, la pancia mi cresce in modo inesorabile. Sarebbe disagevole e rischioso viaggiare in questa situazione. I miei genitori però insistono, si disperano, mi inviano messaggi chiedendomi di intercedere, si offrono di mandare un'armata al porto di Zeeland che ci scorti, preferiscono che facciamo il viaggio per mare. Via terra dovremo attraversare la Francia. Per fortuna Filippo ha rifiutato questa proposta, conoscendo le tempeste del Mar di Ponente. Non riesco a capire come i miei genitori pensino di tutelare in tal modo la mia sicurezza. Non è il mio benessere, ma i loro interessi ciò che assecondano. Sono questi atteggiamenti freddi e rigidi della mia famiglia che infastidiscono Filippo, sebbene sia anche possibile che abbia timore che io riveli ai miei l'angoscia che negli ultimi tempi provo e la soggezione in cui mi tiene. Non so. Non so, mi sento un legno lanciato in un nido di termiti. Sono dubbiosa su come andare avanti. Mi odio e l'odio sbriciola le mie fondamenta e affiora cercando di prendersi una rivincita. Più di una volta, facendo l'amore, le mie mani lo hanno cercato per fargli del male. Ho affondato le unghie nelle sue braccia, nella sua schiena e ho avuto degli orgasmi provocati dalla visione del suo volto senza vita. Ah! Ma mentre mi abbandono alle mie visioni omicide, arriva lui a toccarmi con la lingua e allora dimentico i miei rancori e i ragionamenti inutili, perché in quel momento il cervello mi si riempie di fiamme pentecostali. In una stoccata Eros vince il mio odio e mi arrendo come una colomba che si sveglia tranquilla dopo aver sognato un falco. Filippo si rifiutava di andare in Spagna per essere nominato erede ufficiale della corona. Filippo non era uno stupido, e i suoi consiglieri meno ancora. Sapevano che i re cattolici avrebbero trovato il sistema per assicurarsi la sua lealtà, che lo avrebbero costretto a rinunciare a corteggiare la Francia per consolidare in Spagna la sua posizione di erede. Filippo sospettava che i re cattolici avrebbero preteso il figlio Carlo così da educarlo alla loro maniera. Per contrastare le ambizioni e l'influenza dei miei genitori, Filippo predispose un proprio piano. Lasciò i bambini con suo padre in Austria e incluse nel percorso di viaggio verso la Spagna una visita con tutto il debito sfarzo e cerimoniale in Francia. Sarebbe andato in Spagna, ma prima avrebbe rassicurato l'amico Luigi XII riconfermandogli la lealtà delle Fiandre. Un anno dopo, il 16 luglio del 1501, nacque Isabella, la mia terza figlia. E nel gennaio del 1502, dopo una breve permanenza in Francia, arrivammo in Spagna. Prima della partenza, mio suocero mi ha convinto ad acconsentire al fidanzamento di Carlo con Claudia, la figlia di Luigi II. Il patto matrimoniale Ratificherai il trattato firmato a Lione da Massimiliano I, da Filippo e da Luigi XII e riconfermerà l'amicizia di Austria, Paesi Bassi e Francia. Io ho acconsentito a patto che Filippo si impegnasse a non rimandare ancora il viaggio in Spagna. Per assistermi nei preparativi del viaggio, mia madre mi ha mandato finalmente un consigliere astuto e saggio, Juan Rodríguez de Fonseca, vescovo di Cordova. Grazie a lui mi sono sentita meno sola e ho capito la complessità degli interessi in gioco, che prima conoscevo solo per intuito. Le mie valutazioni erano corrette. Il vescovo Fonseca mi assicura che la saggezza e la forza d'animo da me dimostrate alla corte fiamminga sono state oggetto di lodi da parte di quella spagnola. Mi dice che l'ambasciatore di Spagna, Gutiérrez Gómez de Fuensalida, di ritorno dalle Fiandre, ha persino sostenuto davanti ai reali che io ero la loro degna figlia e che per la mia età non avevo pari al mondo. Questa notizia mi fece piacere. Sia il vescovo sia Fuensalida pensano che i consiglieri di Filippo siano ingordi, avvinazzati, fanfaroni e dediti alla diffamazione. Queste debolezze, sommate al sospetto di poter perdere l'influenza su Filippo in Spagna, sono d'intralcio ai nostri progetti di viaggio. Il vescovo attribuisce loro la colpa di aver convinto Filippo a scartare la traversata per mare e a optare per il tragitto via terra che ci porterà ad attraversare la Francia. Per questi cortigiani fiamminghi, l'idea di essere ricevuti alla corte di Luigi XII con grande sfarzo e cerimoniale è irresistibile. Tanto sono attaccati al piacere dei banchetti, all'emozione dei tornei e delle partite di caccia e al frastuono dei rituali di corte. D'altra parte, io non posso biasimare del tutto l'ambizione di Filippo, che suppone di diventare quanto prima sovrano di un regno che riunirà sotto il suo scettro l'impero del padre e i regni della mia corona, oltre ai suoi possedimenti in Borgogna. Non è irragionevole, all'interno di questo schema, che lui aspiri all'amicizia della Francia. Sono persino arrivata a pensare se non sarebbe fattibile, dopo che Filippo e io avremmo preso le redini della Spagna, che i conflitti con la Francia cessino e si possa costruire una pace vantaggiosa per tutti. Sarebbe motivo di orgoglio per porre fine a rancori tanto antichi senza ricorrere ad altre guerre. Il vescovo Fonseca mi dice però che la sua maggiore preoccupazione sta nel fatto che Filippo possa decidere di governare la Spagna da Bruxelles, come se si trattasse di una provincia, e che non accetti di trasferire la sua residenza a Valladolid. Se si presentasse questa eventualità, io dovrei essere pronta ad affrontare mio marito e a non tollerare una simile assurdità. I miei genitori si aspettano che io sposti l'ago della bilancia a favore della Spagna. Non conoscono la caparbietà e l'arroganza di mio marito né l'abilità dei suoi consiglieri nell'isolarmi e togliermi l'influenza. Ma faccio male a riempirmi il cuore di presagi oscuri. Io spero che la mia terra affascini Filippo. Vedremo chi sarà il vincitore in questa competizione. Per il momento il palazzo è a soqquadro per i preparativi. L'umore di Filippo ha dato una svolta favorevole alla mia corte e alla mia persona. Il mio seguito ha ricevuto da lui regali e ricompense ed è stato potenziato con l'ammissione di 7 dame spagnole e di 34 borgognone. Il visconte di Gand, Hugues de Melun, sarà il mio cavaliere d'onore durante il viaggio. Per festeggiare la nascita di Isabella, mio marito mi ha colmato di vestiti e di gioielli. Si compiace nell'immaginare quanto spiccherà la mia bellezza in confronto a quelle pallide francesi. E come se l'idea lo eccitasse, è tornato a pascolare sul mio corpo come un toro avido di carezze e di baci. A volte penso che la felicità stia tornando nella mia casa in punta di piedi, eppure, dopo aver fatto l'amore, i miei sogni sono popolati da incubi nei quali sono circondata da labirinti pieni di silenzio e di solitudine. Dovrei essere felice, dico a Beatrice. La mia fedele Beatrice. Ho dei bei figli, il mio ventre è molto fertile, ma questi palazzi borgognoni traboccanti di luci e di arazzi hanno il pavimento disseminato di scorpioni e nelle fessure delle sue pietre si nascondono il tradimento e i pugnali. Non sono più la ragazza ingenua che si fidava della sua felicità e non conosceva i miraggi. Il mio cuore è invecchiato in fretta e se dipendesse da me, porterei Filippo lontano da qui e gli strapperei con la lingua quella pelle d'orco e di drago, che non ha niente a che vedere con la sua allegria e la sua nobiltà. Sono loro, i cortigiani malevoli e calcolatori, che lo incitano a irritarsi e a prendersela con me. Io però conosco il Filippo nudo che loro non vedono. Io conosco il bambino che si rifugia sul mio ventre, che cerca tra i miei seni l'odore della madre perduta nell'infanzia. Conosco l'uomo che naviga sulla mia anima e sul mio corpo a vele spiegate. Vedo quell'essere dietro il rosso delle sue collere. Per questo taccio e mi arrendo, perché l'amore ha altri occhi oltre quelli per piangere. I miei genitori volevano che portassimo Carlo in Spagna, ma Filippo si è fermamente rifiutato di farlo. I miei tre figli sono partiti per Malin, dove rimarranno con la bisnonna e la zia Margherita. Passeranno mesi prima che li riveda. Ho dovuto svezzare Isabella dopo 90 giorni e affidarla alla nutrice. La mia bambina bionda. Ogni volta che la guardo mi sembra di vedere la mia sorella maggiore. Carlo, di 18 mesi, si era attaccato alle mie sottane, aveva gridato come un dannato quando il principe di Cimè lo aveva strappato dalle mie braccia per farlo salire sulla carrozza. Soltanto Eleonora aveva mantenuto la calma, ma io avevo visto la sua boccuccia tremare, sul punto di mettersi a piangere quando l'avevo salutata con un abbraccio. Senza le mie figlie e mio figlio, in questo palazzo impazzirei di nostalgia. Se non fosse che tutto il giorno vanno e vengono sarti e cucitrici, parrucchieri e orefici che mi mostrano velluti, sete, broccati, scarpe, parrucche, da scegliere per il viaggio. Sono stati predisposti più di 100 carretti per trasportare i nostri bagagli. Il vescovo Fonseca, che Dio lo benedica, non cessa di darmi consigli, mi esorta a stare attenta, a non lasciarmi soggiogare dai giochi e dagli inganni sottili dei Valois. Poiché è figlio di una francese e di un arciduca borgognone, Filippo sarà ricevuto senza dubbio come primo pari di Francia, nobile, ma vassallo del suo re. Io, invece, come erede dei regni di Castiglia e di Aragona e come futura regina, non posso accettare quel vassallaggio e devo agire con intelligenza per non ostacolare gli interessi di mio marito, ma nemmeno i miei. Tutta la popolazione di Bruxelles è venuta a salutarci. Il corteo che ci accompagna è magnifico. Abbiamo iniziato il viaggio verso Valenciennes, sulla strada per Bayonne, sotto un cielo coperto e autunnale. Filippo cavalca al lato della mia carrozza e illumina il giorno con la sua bellezza. Perché due soli se basta il sole che è mio marito? Salutiamo la gente che si raccoglie lungo il cammino. I paesani ci guardano con riverenza e ammirazione, ammirano la nostra bellezza, la nostra giovinezza, i sorrisi che ci scambiamo e nei quali qualsiasi uomo o donna può riconoscere un legame più umano e genuino di quello delle teste coronate. L'arcivescovo di Besançon, François de Buisletin, viaggia nella carrozza davanti alla mia. Quando non cavalca al mio fianco, Filippo si intrattiene con lui e i due si immergono in lunghe conversazioni, di cui sono gelosa, come sarà geloso lui delle conversazioni che Filippo tiene con me. Nessuno in tutta la corte delle Fiandre mi vuole tanto male come questo vecchio, e a nessuno io voglio tanto male come a lui. Noi due siamo le persone che amano di più Filippo in tutto il regno. Per questo lottiamo per possederlo, e niente ci renderebbe più felici che vedere il nostro rivale perdere il suo favore. Una mano di Buisledin si sporge dalle tendine e segnala un punto in lontananza. Ha le mani lunghe, sottili, femminili, come una parte della sua anima. Per sfortuna ha i vizi del mio sesso e nessuna delle sue virtù. Ma Filippo non si accorge del suo interesse ambiguo. L'ho avuto accanto fin da piccolo. Non ha la giusta distanza per osservarlo senza il velo dell'affetto filiale. Beatrice di Bobadilla e Madame de Halleven sonnecchiano accanto a me. Abbiamo viaggiato senza pausa, il sole comincia a eclissarsi sul nostro cammino. Mi avvolgo la coperta attorno alle spalle. Presto arriveremo a Valenciennes e ci riceveranno con grandi festeggiamenti. Non ho mai visitato il sud del paese. Potrò riposare, godermi l'amore dei miei sudditi. Ci vogliono ancora alcuni giorni per arrivare in Francia. I sovrani di Francia prepararono ricevimenti favolosi per me e Filippo lungo il tragitto. Dovunque passavamo eravamo ricevuti come re. In ogni città eravamo accolti dalla più alta nobiltà. Le campane suonavano per richiamare la gente. Nelle strade ornate a festa venivamo acclamati da folle ansiose di vedere la coppia famosa per la sua bellezza e per l'eleganza del seguito. Nelle città si concedeva a Filippo l'onore di condonare le pene e di presiedere le corti di giustizia, e la sera si offrivano balli e banchetti, e di giorno giostre e tornei. Io colpii gli anfitrioni per il mio comportamento dignitoso e soprattutto per la fluidità con cui parlavo il latino, lingua in cui pronunciai discorsi di saluto e di ringraziamento, ma, consigliata dal vescovo Fonseca, mi ritiravo discretamente dalle feste in onore del re di Francia.